Radio Cerrano presenta Carta Bianca. Eleonora Marchini racconta interviste e approfondimenti su fatti e personaggi della nostra terra. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Cerrano Web, la radio in streaming delle terre del Cerrano e dell'Abruzzo. Sono Eleonora Marchini e questa è la nuova puntata di Carta Bianca. Eleonora racconta, e questa mattina prendiamo un caffè con Umberto Bracili, inviato delle TG3, giornalista, personaggio eclettico con mille interessi. Lo salutiamo, ciao Umberto. Ciao, buongiorno, non facciamo pubblicità ma il caffè è stato buonissimo, adesso quindi facciamo questa intervista. Intanto ti devo fare i complimenti perché avere una rubrica che si intitola Carta Bianca è meravigliosa, perché trasmettere quello che vuoi trasmettere è forse la cosa più bella al mondo. Avere la libertà di raccontare quello che è bello, interessante, scoprire nuovi aspetti, no, del nostro territorio in tutte le sue sfaccettature, che possono essere dalla musica, dall'arte, dalla società, dai problemi anche che riguardano la vita quotidiana. E noi siamo qui proprio con Umberto perché volevo raccontare un suo libro, che è I Mille Abruzzi, che nasce un po' come idea dalla rubrica, lo dico al TGI, che lui ha seguito per 11 anni, una rubrica che ha raccolto la voce della quotidianità, la voce della gente comune. Sì, infatti questo tra l'altro è un libro bis, perché io ne ho scritto già uno, chiamandolo proprio Lo dico al TG, dove erano raccontate sulle 150 persone, però in quel libro, Lo dico al TG, che seguiva un po' la mia rubrica, erano tutte denunce. Io adesso sto cominciando a invecchiare, sono un diversamente giovane, e quindi adesso sono andato su questo libro, ovviamente sulla denuncia, ma ovviamente di più approfondendo quanto è bello parlare con la gente vicina, ascoltare quello che dice e magari prendere qualcosa di positivo. In questo libro, per esempio, ti faccio un esempio, ci sono i miei supereroi, che sono persone normalissime, che fanno però delle cose meravigliose che non vengono, per esempio, notate dalla politica, perché la politica è chiusa, perché sennò tra quei supereroi sono 10-12, io avrei la possibilità di proporre 10-12 sindaci, perché loro sono bravi a fare quello che hanno in mente, e quindi tutto questo poi ricade sul libro. Di contropeso, nel libro stesso ci sono i miei supereroi, ma ci sono anche gli invisibili. Gli invisibili è una categoria che va al di là della denuncia di un problema. Cioè tu, cittadina, puoi avere un problema e io te lo denuncio. L'invisibile è condannato a morte, è quello che ti sta alla porta accanto e tu non sai nemmeno che dramma sta vivendo. E in una società, scusami se ti interrompo, in cui il mondo è sempre più virtuale, in cui ci si scambia opinioni anche in modo aggressivo sui social, poi in realtà non si conosce neanche chi ci abita nella porta accanto e che situazione vive. Come dici tu, se sta vivendo un dramma, molti drammi della solitudine spesso accadono e si sente le persone dire: ma non ha mai dato un segnale, non ce ne siamo mai accorti. Forse in realtà perché siamo diventati ciechi e sordi, no? Sì. A quello che è l'ascolto dell'altro. Io quando presento questo libro dico una cosa: noi abbiamo subito una dose massiccia di Valium da parte del potere economico e del potere politico, per cui noi siamo addormentati, perché la colpa principale è nostra. Cioè votare come si è votato, per esempio, le ultime politiche, senza sapere chi voti, è una cosa offensiva, eppure abbiamo fatto pure quello. Ti racconto una cosa brevemente. Un politico che poi non è stato eletto, con un politico stavo chiacchierando e lo stavo pungolando dicendo che a me tutto sommato oggi basterebbe un re, perché tu un re commercialista onesto che ti mette a posto i conti, e se tu ti devi arrabbiare ti arrabbi con uno, perché oggi è la società che tu vai da uno, dici: ma perché hai fatto così? Non so, la colpa non è mia ma di quell'altro. E allora questo signore si è candidato, non è riuscito, e io ho chiesto a lui: mi dici i nomi delle altre tre persone candidate insieme a te, dove tu dovevi mettere solo la X, che l'hai messa pure tu, adesso stai già avendo il dubbio a chi hai votato come persona. Beh, lui che stava nel lago politico non ricordava il nome di due delle tre persone che stavano nella lista. E questo libro invece è il contrario, che poi non l'ho scritto per questo, è nato per questo, perché io faccio un mestiere meraviglioso dove incontro tanta gente, o forse devo fare il presuntuoso, diciamo la virtù di stare ad ascoltare la gente, quindi ragionarci, poi dire se una cosa è buona o non è buona, e se una cosa è buona o se una cosa è ingiusta, io vado a fondo, a me mi pagano per fare il mestiere più bello del mondo, così. Il giornalismo ha degli aspetti cruenti, ma può dare tante soddisfazioni, proprio come quella di scendere tra le persone e raccogliere la vita reale, no? E il merito forse di questo libro è quello proprio di raccontare in modo semplice, scorrevole e essenziale quella che è la vita di tutti i giorni, in cui noi andiamo a identificarci, in cui ognuno di noi in un piccolo particolare può trovare qualcosa che gli è capitato o qualcosa che in cui potrebbe incappare. Per esempio, è proprio così, perché ti ho detto, c'è una parte di denuncia, c'è una parte di sconforto, perché gli invisibili sono qualcosa che poi noi ci portiamo dietro nella nostra coscienza, anche se poi nascondiamo. Però per esempio c'è pure il capitolo gente comune, gente d'Abruzzo. Ti faccio un esempio, una persona che aveva lasciato l'insegnamento per fare teatro, ma teatro serio, lui fa teatro classico e tutto, però ovviamente non entrava nel giro di chi ha poi il potere, come al solito. Che cosa ha fatto lui? Ha cominciato a affittarsi dei garage per fare delle rappresentazioni, a tirarlo di Shakespeare, cose fatte bene, cose che venivano seguite dalla gente. Dopodiché si è reso conto che anche il garage costava troppo l'affitto. Cos'è che ha fatto? Ha misurato casa sua, la sala da pranzo, sai, una casa gentilizia, una casa d'epoca nobiliare, magari. Sì. Ha misurato e ci ha messo dentro 27 posti e 3 strapuntini. Fa 5 rappresentazioni a settimana, ci campa pure e ha risolto il problema. Siamo tornati un po' al passato, quando i nobili, i signorotti avevano l'area teatro, sì, esatto. Avevano la loro cappelletta. Lui fa quello che vuole, che voleva fare nella vita, sì, facendolo e guadagnandoci pure. Allora, quello che oggi è, non c'è lavoro, non c'è, bisogna pure farsi camminare la testa. Un'altra signora che ho incontrato per caso, a caso di Chieti, era stata licenziata da una società informatica, sì. Invece di piangere, cos'è che ha fatto? È andato dal vecchio zio, si è fatto insegnare come si fa il ciabattino e ha messo un negozio per mettere a posto le scarpe, che va adesso benissimo. Tra l'altro oggi siamo tutti poveri e quindi non buttiamo più tutte le scarpe. Cioè, io quello che dico, la persona vicina ti può anche aiutare a cambiarti la vita, oltre a cambiartela moralmente, eticamente, ma anche praticamente. Invece noi oggi siamo addormentati, non c'è lavoro, aspettiamo il reddito di cittadinanza. Siamo in effetti altruisti, aspettiamo che siano gli altri a risolvere i problemi. Siamo in cassa integrazione, facciamo il lavoro in nero. Tutto questo, da questo non ne possiamo. Questa è una denuncia molto forte, nel senso che comunque dà una parte delle colpe della situazione non solo alle istituzioni, ai privati, agli imprenditori, alla società, diciamo così, ma anche ai cittadini, che magari in qualche caso non generalizziamo mai, perché non si può mai generalizzare. In molti casi non hanno forse la voglia, le capacità o la, sai, quella parola che si chiama resilienza, cioè la forza di affrontare, sì, e di rimettersi, sì, in gioco, di reinventarsi, di ridiscutere. Io in questo libro ho visto un messaggio anche di speranza, che tu racconti non solo storie tristi, ma ci sono anche storie positive, sì, che ti sono capitate. Sì. Ma infatti il sottotitolo è Gente felice, triste e incazzata nella regione forte, gentile e martoriata. Diciamo che è di Ricerca e Redazione. Del mitico Giacinto Damiani. Sì, si sono soprattutto, anzi, questo libro, come ti dicevo all'inizio, va dalla incazzatura mia solita, per poi andare a, come dire, è come un acquerello, poi va a finire alle storie belle, perché se noi non diamo una alternativa a tutto questo, siamo qua solo a piangere e fare tutto, ti ripeto, questa non è la Divina Commedia, però è un libro che vuole tentare di fare questo. E io, numerosissime sono le mie presentazioni, vengo adesso da Bolzano, sono stato anche a Napoli, sono stato a Salerno, tante presentazioni in regione, ormai ho raggiunto già 30-40, e noto che io presento i libri con i filmati, noto che c'è empatia, che la gente, cioè, piace quella roba perché è quella roba che vive tutti i giorni, sì. E magari mettendoci insieme, certo, un libro non può fare una rivoluzione, ma può essere un piccolo passo, esatto, sì. Però può essere un passaparola dove uno, certo, dice, sai, per esempio, una cosa bella, io ho scritto 3 libri e non ho mai preso una lira da questi 3 libri, ultimamente a Castellalto sono stato invitato a un festival della letteratura, bontà loro, mi hanno fatto testimonial, io che sono un giornalista di campagna, è venuta una persona da Atessa, sì, appositamente per incontrarmi, perché aveva comprato il libro e ha detto, io ho una piccola azienda legata al Ducato, alla Fiat, ho avuto tanto, voglio dare tanto e voglio dare soldi per il progetto di Abilbait, è il momento di dare qualcosa, e se tutti noi dessimo qualcosetta, Francesca, già qua, io e te, un grammo tu, noi potremmo rivoluzionare questa mediocrità che è imperante di una politica che vuole tiene solo al proprio posto. E anche l'indifferenza, smuovere un po' le coscienze, sì, sì, il senso civico e sociale delle persone. Ne approfitto per dirti allora un'altra cosa, sì? Cristina, mamma di un ragazzo autistico più alto di me, 1,90, enorme tutto quanto, 400 ricoveri già fatti e 200 programmati, il marito di Cristina, un nobile uomo, appena visto che il figlio era autistico è scappato e lei si ritrova in una città che poi è Chieti, che non è la sua città, perché lei è venuta a Chieti completamente sola con questo ragazzo. Ho fatto una domanda a Cristina, ho detto, da quanto tempo tu non vai al cinema? E lei me lo sa che mi ha risposto, io non ci vado mai al cinema, perché sto con lui, vivo con lui e devo dormire anche con lui, perché lui da solo non è capace di dormire. Tutto questo se non ti stringe il cuore, e non deve essere un'indignazione che dura 3 minuti, perché c'è tanta gente che si indigna per 3 minuti e poi si dimentica di tutto. Deve essere una riflessione fatta quotidianamente. Deve essere un mattone che ti entra dentro. Prossimo appuntamento, la prossima presentazione del tuo libro? Beh, prossimo, io non so quando vai in onda questa, ne ho 3. Adesso ho Arsita, Penne e Cellino Attanasio. E poi c'ho un'idea, sì, per ora è un'idea, un'idea molto strana, che è quella di presentare il libro insieme a Anduccio. Beh, potrebbe essere, sì, una... Io parlo di delle persone serie. E lui farà un po' la satira di quello che succede. Tutto questo per raccogliere dei fondi per l'Amicacci, che è una squadra di basket in carrozzina meravigliosa, è anche nel libro, e anche fra i miei supereroi, che riesce a togliere dalle case i bambini disabili in carrozzina e farli diventare campioni. Hanno bisogno di un pulmino e noi cerchiamo di darglielo adesso. Ed è una splendida iniziativa il tuo impegno a favore delle persone diversamente abili, che poi sono forse persone più speciali degli altri. Guarda, io sono un diversamente in tutto. Per ora non sono diversamente apri, però nessuno legge il nostro futuro. Può succedere che domani, sì, tu, io vado a finire in carrozzina. Sì. E per questo l'incazzatura mia massima, lo sai qual è? Quando vedo una macchina in un parcheggio per i diversamente abili, che ti dice 5 minuti, e dico, guarda che potresti anche tu aver bisogno 5 minuti prima di quel parcheggio. Infatti. L'ultima domanda e poi ci salutiamo in questa ottobrata rosetana, che siamo in quel di Roseto degli Abruzzi in questo momento, la storia che più ti ha colpito, la storia di questo libro, all'interno di questo libro, che più ti è rimasta dentro? Non è la mia, e ti spiego perché. L'ultimo capitolo si chiama Insegnamenti. Ho fatto una sperimentazione su Facebook, ho detto, perché non mi raccontate le esperienze sentite dai vostri genitori e dai vostri nonni e che voi oggi non riuscite a trasmettere ai vostri figli. faccio un esempio, ai miei tempi, da diversamente giovane, quando cadeva il pane, mamma ci aveva insegnato che si raccoglieva il pane, si baciava e poi si mangiava. Sì. Oggi se tu dai a tuo figlio il pane del giorno dopo, per l'amor di Dio, deve essere pure, saranno meravigliosi, ma questo è un modo di andare avanti, non lo vuole. Allora, sono usciti fuori 20 quadretti, di 30 righe ognuno, di quello che ognuno ha ricordato di un insegnamento di come si viveva ieri, che oggi noi ci vogliamo dimenticare, noi ci siamo dimenticati, proprio ieri ho messo su Facebook, sulla mia pagina, la storia di Antonio, un pastore transumante, che gli ho detto, ma voi come vi divertivate quando, per esempio, eravate a Foggia con il pastore abruzzese e le pecore? Siccome noi non conoscevamo la felicità, senti che belle parole, noi ci accontentavamo di ballare e cantare fra di noi. Ed la semplicità, della vita meravigliosa delle cose semplici. Oggi se perdi il cellulare sei spacciato. Sei finito, Antonio, si va in ansia, no. In ansia da essere trovati, ricercati, postare quello che si sta facendo in ogni istante. Per chiudere, Antonio ha 97 anni, lucidità mentale e tutto. Come si dice? Dove dobbiamo mettere la firma per arrivare? Esatto. Ma la dobbiamo impostare quella firma. È vero, sta a noi. Anche perché vivere 97 anni così squallidamente. Ma non avrebbe tanto senso. Ringraziamo Umberto Braccini. Io ringrazio te, che sei una persona in gambissima, molto sensibile e molto brava. Giuro che non l'ho pagato. No. Ci aggiorniamo alla prossima puntata di Carta Bianca. Rimanete con noi, seguiteci. Questo streaming audio lo trovate sul sito www.radiocerrano.net e nella pagina Facebook della radio. Sarà fatto. Buona giornata a tutti.